Sto fumando Swisher Sweet Baby. Fumo bianco Rione Monti fino a Coco Baby. Io mica gioco, io non resto a piedi. Alto come lo spazio, fumo tre pianeti. Fumo blunt, 10 grammi Swisher troppo. Grasso, soldi, non penso ad altro. Blunt, 2 blunt, 3 blunt, 4 blunt. Stucco di PG e GG grossi. Rollo questi blunt, hanno i brillocchi. Viola nella fanta, mi si gira gli occhi. Gira la mia canna, siamo G-Tossic. Vola per la stanza fra questa katana. Sempre vale Rossi che fa la gincana. Mangio cacio e pepe e la matriciana. Vedo la Madonna perché vuoi il bandana. Sto a 420 e spazzo tutto. Io se stavo in zona per piazzare tutto. Vengo da Genova ma ho un nuovo gruppo. Faccio ancora in bocca ma non sono uno. Io mangio Italy col Zic Lucas. Ma non faccio fit senza burbuca. Pasta con meatball e verdura. Se non sei convinto la strada è una. Compro le Swisher e ne riempo una. Conto le scitte e me ne tengo una. Non siamo certo dei tipi da bar. In piazza facciamo la nostra fortuna. Droga sul mio palmo, sto alzando borse. La tua troia, borse sotto agli occhi. Sto facendo soldi, sto facendo corse. 10 grammi, aspiro merda dolce. Lei mi chiama dolce. Moscerì. Fumo da un pacco da 2 kg, c'è nebbia nel passo. Sto fumando grasso, la strada è il mio piatto. Dove ancora mangio, doppio oggi Gucci sopra la giacca, lei vuole me. Potere in tasca da un'altra galassia. Non fumo standard, 300 mg star. Tra io e la fila. Fendi la mia fibbia. Rio nella mia piazza. Fottu gli alieni dallo spazio. Sto fumando Swisher Sweet Baby. Fumo bianco Rione Monti fino a Coco Baby. Io mica gioco, io non resto a piedi. Alto come lo spazio, fumo tre pianeti. Fumo blunt, 10 grammi Swisher troppo. Grasso, soldi, non penso ad altro.